1861 l'Italia era stata unita, ma non aveva ancora la capitale che sognava, Roma. E a Roma regnava Pio IX, il Papa Re, detentore del potere spirituale e del potere temporale. Figura complessa, amato e odiato con pari intensità non solo dai romani, che dovevano sopportarne nella vita quotidiana le dure regole, imposte soprattutto dall'insieme di un clero, cardinalizio e non, che viveva di privilegi sociali ed economici, esercitando il suo potere in un'armonica complicità con la casta degli aristocratici. A Roma era praticamente inesistente la borghesia, cioè quel ceto in genere capace di fare da ammortizzatore fra i potenti e la plebe, che soprattutto a Roma era costretta ad una vita di assoluta povertà e soprattutto di sottomissione continua e spesso feroce, come testimoniano le condanne a morte per impiccagione o per decapitazione con l'uso della ghigliottina. Il Belli aveva descritto magistralmente quello che la plebe pensava in genere dei papi. I papi, il primo mese del papato, sono un po' meno, un po' più tanti conigli. Ognuno da rinzucchera il passato, tutti quanti te infiorano di gigli. Ma dai tempo che abbino imparato a far mestiere e a maneggiare gli stigli, aspetta che s'avvezzino allo stato, lassa un po' che gli creschino l'artigli, e allora fra erpasvobbi e ricrielle sonne, quel nuvolo dei gigli te diventa garofoli per Dio de cinque fronne, e il ricco sciala e il ciorcinato stenta, strilli giustizia e nessuno risponde, e poveretto lui chi se lamenta. Non ci si può meravigliare dunque se il risentimento dei romani, spesso vero e proprio odio, si rivolgeva a colui che era considerato il vero responsabile della situazione. Il Papa ride? Male, amico. È segno che a momenti il suo popolo ha da piagne. Le risatine de sto buon padregno per noi fiastri sono sempre compagne. Ste facciacce che porta in altri regno s'assomigliano tutte alle castagne. Belle de fora e poi per Dio de legno, muffe de drento e piene de magagne. Il Papa ghigna? Ce so guai per aria. Tanto più che il suo ride desti tempi. Non mi pare una cosa necessaria. Fii miei cari, state bene attenti. Sovrani in allegria so brutti esempi. Chi ride cosa fa? Mostra li denti. Meraviglia invece, in qualche modo, che a un certo punto della storia della Chiesa Pio IX fosse fatto beato. E ci si chiede per quali meriti. Ed ecco venire alla luce la complessità del personaggio che in verità concepiva il potere temporale non alla stessa stregua di quello spirituale, ma come strumento per il raggiungimento degli scopi pastorali della religione cattolica. Credeva che senza uno Stato pontificio indipendente e senza lo strumento del potere, la cristianità non poteva esistere. E nei primi anni del suo pontificato fu amatissimo. Cosa si poteva dire di un papa che durante la colera del 1854, da lui considerato una punizione divina per il disordine dell'epoca, a rischio della vita andava a visitare i malati? Ma che buon papa, eh? Ma che animella! Si aspetti un papa simile, si aspetti. Hai prima da vedere su Pelitetti li merluzzi a ballare la tarantella. Quando te guarda lì con quell'occhietti, con quella su boccuccia risarella, ma non te senti a rimuovere le budella? Non gli daresti un bacio a pizzichetti? È papa, è vicecristo, è quel che vuoi, eppure va, in parola da cristiano, a me mi pare proprio uno di noi. Dimmi la verità, Mastro Ilarione, ce la trovi una mutria di sovrano? Ce la scopri una faccia da padrone? E cosa si poteva dire contro la promulgazione del dogma dell'Immacolata Concezione, almeno nella quasi totalità del mondo cristiano? Che la Madre di Dio fosse immacolata era perfettamente in linea con la fede cattolica e fu un grande evento mondiale, forse il primo di una Chiesa moderna che Pio IX rifondava, imponendo e affermando la necessità di un integralismo religioso che però fu accolto con un certo fastidio in Europa e nel mondo e che proseguì con il Concilio Vaticano I che affermò l'infallibilità del Papa. Insomma, più luci o più ombre, l'inno a Pio IX che ascoltiamo accende le luci. Alle luci si contrapponevano con furia iconoclasta le ombre che ormai conquistavano sempre un maggiore spazio nella coscienza patriottica e che son ben rappresentate in questa durissima canzone popolare. Circa la situazione politica nel 1867, cui si aggiungeva la posizione del re Vittorio Emanuele II, che pur professando una forte fede cattolica, era costretto più o meno consensualmente a un rapporto spesso conflittuale con Pio IX, il quale temeva che l'intervento dell'esercito piemontese si traducesse in un'occupazione dello Stato pontificio. La conseguenza sarebbe stata Roma, capitale del nuovo Stato italiano. Con forte preoccupazione si rivolgeva con suppliche ed espressi inviti ai capo di Stato europei, in particolare ai francesi, che infatti risposero ai ripetuti appelli del Papa, espressi anche nell'enciclica Levate, che conteneva quello che era il pensiero di Pio IX e della sua corte sui nemici della Roma papalina. Questa razza d'uomini scellerati, animati da spirito veramente diabolico, vogliono collocare la bandiera della menzogna in questa nostra alma città. Roma, Roma, Roma è la nostra, è il bel giardin d'Italia, e ma chi è che se la lode, e preti e frati e tutta la canaglia. Il Papa esprimeva spesso la convinzione che la rivoluzione sarebbe presto arrivata fino al Palazzo Apostolico, confortati in questo dalle molte notizie che lo spionaggio ben organizzato raccoglieva ogni giorno fra il popolo e che ne davano ormai imminente lo scoppio. E questo ardore rivoluzionario si era propagato anche dentro Roma, ancora in forme cospirative e segrete, agendo in stretto contatto con personaggi del governo italiano, con ufficiali dell'esercito e con alcuni garibaldini. Garibaldi, in contrasto con Mazzini, il quale temeva che con l'annessione di Roma all'Italia l'idea repubblicana avrebbe perso valore, riteneva lo Stato Pontificio illegittimo e Roma, la capitale naturale dell'Italia, un diritto degli italiani. A settembre di quell'anno, il 1867, Garibaldi, ritenuto pericoloso per questa posizione, venne arrestato e spedito a Caprera sotto strettissima sorveglianza. Ma la sua assenza non fermò i progetti per la conquista di Roma e i suoi garibaldini non persero il coraggio e lo spirito simboleggiato così bene dalla storica camicia rossa. Quando la tromba suona a ballar, con Garibaldi corsi ad arruolar, la man mi strinse con forte scossa e mi die questa camicia rossa. La man mi strinse con forte scossa e mi die questa. Appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara, fida compagna del mio valore, io ti contemplo. Il cuore, perché tu intenda la mia favella, camicia rossa, camicia bella, perché tu intenda la mia favella, camicia rossa, camicia bella. Sei l'emblema dell'ardimento, il tuo colore mette spavento, fra poco uniti saremo a Roma, camicia rossa, camicia in doma, fra poco uniti saremo. Mentre i garibaldini, guidati dai fratelli Cairoli, raccoglievano armi e munizioni da portare a Roma, in città fervevano i preparativi per la rivolta. Il maggiore centro di ritrovo era il lanificio Aiani, una fabbrica situata a Trastevere in via della Lungaretta, il cui proprietario, Giulio Aiani, prendeva parte attiva al comitato d'azione sorto a Roma con lo scopo di liberarla dal dominio politico del Papa. La continua presenza di operai ed operaie che entravano ed uscivano consentiva ai congiurati di mescolarsi ai presenti, riuscendo a sfuggire ai controlli della polizia. Il motore organizzativo del movimento nell'anificio era una donna, Giuditta Tavani Arquati, moglie di Francesco Arquati, che era il direttore della fabbrica. Nella fabbrica si facevano riunioni, si arruolavano nuovi combattenti e soprattutto si raccoglievano armi e si fabbricavano munizioni. Giuditta Arquati, una delle eroine del Risorgimento, era di estrazione borghese, nata nell'isola Tiberina, era religiosa senza ipocrisie, convinta assertrice della libertà sociale, di un cristianesimo basato sull'amore e certo non sulla tirannia. Aveva studiato e fatto studiare figli e figlie. A Trastevere era conosciuta e venne così descritta. Alta, aitante della persona, scintillante, pien di intelletto, notevole fisionomia, sicché veduta, te ne restava fissa in mente la immagine. Ma al di là della bellezza e della storia personale, Giuditta aveva il problema rappresentato dalla scarsità di armi a disposizione dei rivoltosi, ai quali ne doveva giungere, secondo notizie pervenute, un bel carico che era in viaggio con la spedizione guidata dai fratelli Cairoli e che si avvicinava a Roma. Sono allegro, squillo di guerra, l'Italia è sorta dalla Le voci della prossima insurrezione avevano allarmato fortemente il governo pontificio. Il capo della polizia papalina aveva ordinato una sorta di coprifuoco per la popolazione ed un controllo più stretto su tutti i luoghi sospetti, tra cui anche il lanificio Agliani. Fu deciso in una riunione del comitato rivoluzionario il piano di azione che doveva essere realizzato con inizio il 22 ottobre. Primo. Attentato dinamitato alla caserma Seristori, situata in Borgo, e base degli odiati zuavi pontifici, di cui furono incaricati due popolani, Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti. Secondo, sommosse contemporanee in varie parti della città, dal Campidoglio a Porta San Paolo, dove erano depositi di armi degli zuavi. Terzo, arrivo a Roma dei fratelli Cairoli con la scorta di armi e munizioni e, nei piani dei ribelli, cacciata del Papa Re e conquista della capitale. Monti e Tognetti erano poverissimi e a quanto risulta accettarono l'incarico di far saltare la caserma Serristori con molte perplessità, su cui prevalse però il senso del dovere e la parola data ai compagni. Monti, muratore, aveva una moglie e tre figli, dei quali uno in tenerissima età, mentre Tognetti, giovanissimo e anch'egli muratore, era l'unico sostentamento dei genitori e di quattro fratelli. Nei piani del comitato di insurrezione far saltare la Serristori voleva dire togliere di mezzo gli zuavi che la occupavano e che erano considerati feroci mercenari. Lo stuolo dei soldati protettori, mercenari, sgherri, fidi del papato, bracchi d'esso assai più che servitori, prode milizia d'ogni culto e razza, che per oro si vende, afferra e ammazza. Con l'aiuto di Tognetti e di alcuni compagni, Monti riuscì ad entrare nel magazzino delle armi della caserma con qualche difficoltà, portandovi due barili di polvere da sparo. Ma lasciamo che sia il Monti, che rimase poi solo a compiere l'attentato, a dirci, nella confessione scritta durante il processo e che risente della sua provenienza marchigiana, come proseguì l'operazione. Accendo un prospero, osservo dove erano i barili, li trasporto con fatica in mezzo e li unisco. Prendo un mattone, lo pongo nelle due bocche, vuoto la polvere sopra che sboccava da tutte le parti, prendo un piccolo sassetto e ci fermai la lesca in pizzo alla polvere. Accendo un altro prospero e vedo il gran pericolo che io mi trovava. Mi feci coraggio e accesi il terzo prospero e con franchezza appicco il fuoco all'esca. Sortii e mi avviai per Borgo Vecchio. Non appena giunsi all'ospedale militare, vidi il chiarore di un gran lambo e appresso un gran colpo che tutto mi intimorì. Seguitai il mio cammino e andiedi a casa mia. Trovai la mia sposa con diverse donne sotto la nostra abitazione e dissi: Lucia, abbiamo niente per cena? L'attentato fece 22 morti, compresi i quattro cittadini che passavano di là, e 12 feriti. Ma l'azione, malgrado ciò, fu un fallimento, in quanto, per un ordine improvviso, gli zuavi erano usciti per correre a sedare i vari focolai di insurrezione e sotto le macerie erano morti i componenti della loro banda musicale. Monti e Tognetti, grazie alla spiata di qualche infiltrato della polizia nel movimento, furono arrestati in un'osteria pochi giorni dopo ed incarcerati in attesa del processo. Malgrado ciò, a Roma e nell'edificio Agliani fervevano i preparativi in un clima di speranza e di fiducia, cui aveva dato vigore la voce che Garibaldi era fuggito da Caprera ed era di nuovo attivo, e che i fratelli Enrico e Giovanni Cairoli avevano raccolto una settantina di garibaldini e di volontari, vogliosi di partire per combattere e pronti anche a morire per la conquista di Roma. Dio, mia bella, Dio, l'armata si... Se non partissi anch'io sarebbe una vita. Se non partissi anch'io sarebbe una vita. Non piangere mio tesoro, se io ritornerò, ma se in battaglia mor, incerti via. viva la libertà. Sono uomo e son soldato, viva la libertà. Ma quanti moriranno, forse proprio morrò, non ti pigliare affanno, Davide non cadrò. Non ti pigliare affanno, Davide non cadrò. Io non ti lascio sola, ti resta un figlio ancora, nel figlio di consolo, nel figlio dell'amore, nel figlio di consolo, nel figlio dell'amore. Squilla la tromba, addio, l'armata se ne va. La libertà, un bacio al figlio mio, viva la libertà. La spedizione, con il suo prezioso carico di armi via Tevere, era giunta alle porte di Roma, riparandosi nella vigna Glori, in attesa della notizia che la rivolta era iniziata, per poter entrare in città portando le armi e combattendo con i ribelli. Era il 23 ottobre 1867. Purtroppo da Roma arrivarono in modo rocambolesco notizie pessime, che avvertivano Enrico Cairoli di tenersi il più possibile nascosto con i suoi, descrivendo una situazione in cui ci si poteva solo arrendere o morire combattendo. Righetto, cioè Enrico, si consultò con i suoi garibaldini, che scelsero il combattimento. Da lì a poco, grazie ad un delatore, arrivò a Vigna Glori un plotone di svizzeri pontifici armato di tutto punto, che attaccò in forze. La battaglia, che durò poco più di un'ora, ce la racconta nei particolari il grande poeta romano Cesare Pascarella, nel suo poemetto in versi romaneschi, che Giosuè Carducci commentò così. Pascarella in Villa Gloria solleva di botto con pugno fermo il dialetto alle altezze epiche. Tutto qui è vero, non è il poeta che parla, è un trasteverino che vide e fece. Il trasteverino è uno dei 70, all'osservazione profonda e sicura, per quanto commossa, delle cose e degli uomini. Entriamo dunque nel racconto dei fatti, cercando di ritrovare quell'atmosfera fatta di attese febbrili, di decisioni nobili, di faticose e difficili attività fisiche e di quegli indescrivibili momenti di intimo raccoglimento che avranno certamente accompagnato quegli eroi prima della battaglia. A Terni, dove fu l'appuntamento, Righetto ci schierò in una radura. Lì ci disse: «Er vostro sentimento lo conosco e non c'è da aver paura. Però, dice, compagni, vi rimmento che st'impresa di noi non è sicura, e Roma la vedremo per un momento pe casca morti giù sotto le mura. Per questo, prima di piare il fucile, se qualcuno di voi non se la sente, lo dica e sorta fora dalle file. Dice, non c'è nessuno che la pianta? E siccome nessuno disse niente, dopo pranzo partissimo in 70 e marciassimo fino alla mattina del giorno appresso. Tutta la nottata all'alba, poi fu fatta la fermata sull'erba zuppa fracica di brina, traversassimo un fiume di rapina, lassassimo la strada e traversata una macchia si sboccò su una spianata e venissimo in giù per la Sabina, dove che dietro a noi c'era per scorta nonni bussetto tutto sgangherato, dove uno ce montava un po' per volta. Per strada per cielo ce se fece cupo e venne l'acqua che non ci ha lassato finché non siamo entrati accanto a lupo. Accanto a lupo, drento a una chiesola, Righetto ci divise in 3 sezioni. Dopo averci letto l'istruzione, fece: ripeto un'altra cosa sola. Se fra voi c'è qualcuno che ci riola, lo dica e non si metta soggezione. Nessuno rifiatò. Fece: benone, vedo che siete tutti de parola, ma perché non ci sia nessun intoppo è inutile a staffare mezze parole, se io morissi c'è l'antro che vi è dopo. E lì, de novo, tutti in marcia. Al fine, caricassimo tutte le pistole e a Corese passassimo il confine e all'Arba, mentre c'era un temporale, ritorno da Firenze li cassoni, dove c'erano trentoli foconi di quelli della Guardia Nazionale. Furono depositati in un casale e dopo, assieme all'antre munizioni, li portassimo trento a due barconi presi da un capopresa padronale. Fatto il carico, sopra ogni barcone ci fu messa la legna e fu ridotto come quelli che portano il carbone, in modo che uno non capisse niente. Poi dopo s'accucciasse sotto e venissimo in giù con la corrente. Avanti a tutti, trenta una cozzetta, come stessero lì a guardare il carbone, c'erano i cairoli di vedetta e noi altri giù a fondo nel barcone. Sentimo dalla riva la trombetta delle truppe del Papa. A Teverone verso notte si scense e ogni sezione fu dislocata dentro una barchetta. E mi ricordo che una era tarlata e che Corsego e con gli stracci pisti lì sulla riva fu calata fata. Dopo annassimo dagli doganieri, li legassimo tutti come Cristi e furono fatti tutti prigionieri. Dopo fatta sta prima operazione, lì ci si fece notte in mezzo a fiume. C'era nell'aria come un'oppressione de fracico e una puzza di bitume. Non si sentiva che scrocchia il timone per non impantanasse nel patume e verso Roma, in fondo all'estensione, si vedeva riluce come un lume che sul cielo era un chiarore e lì per fiume in quel silenzio tetro, for che l'acqua non c'era altro rumore. E in fondo alla campagna, all'aria quieta, de notte, il cupolone di San Pietro pareva di toccarlo con le dita. Sangue della Madonna, che nottata! Anno che mi ritorna alla memoria, mi pare come un pezzo di una storia che qualcuno m'avesse raccontata. Avemmo da stare a Roma a far l'entrata per trovarci la morte o la vittoria. E invece il giorno dopo a Villa Gloria, destino, basta. Sotto alla spianata, a mezzanotte in mezzo alla corrente, se fermassimo per aspettare er chi viva. Aspetta, aspetta, aspetta, niente. Niente, riguardassimo bene dell'intorno, manco un'anima. Andassimo alla riva per aspettare che se facesse giorno e all'Arba fu smontato dal battello e piano piano, senza muove un dito, perché non si scoprisse al Machiavello, s'agguattassimo drento in un canneto. Dopo, Righetto fece col fratello, andate in cinque su per sto querceto e scannagliate un po' per sto stradello se ci fosse un ricovero segreto, che staremo a vedere quel che succede. Intanto lì ci si potrà rimane finché qualcuno non si faccia vede. E mentre andammo sopra, intorno intorno si sentivano batte le campane di Roma che ci davano il buongiorno. Per la macchia trovammo un frattarolo. Faccia a terra, per Cristo! Poveretto, l'intorcinamo dentro il faraiolo e gli appuntammo le pistole in petto. E lì, mentre lo tenemmo stretto, Giovannino gli fa: voi siete solo? Dice: per carità, Sor Vignarolo, mia moglie è nata a Roma col caretto, io sono un povero padre di famiglia. Ci sono i papalini? Sono innocente. Fate la spia, mi faccio meraviglia. Beh, allora, dice, dateci il ristoro. E per farci piappa e buona gente, gli fu pagata una moneta d'oro. E quel vecchio, tremando di paura, ci portò sopra al monte, in un casale, che invece era un casino padronale, dove che ci si va in villeggiatura. Fu aperto, visitassimo le mura, e dopo aver girato per le sale e aver visto che lì tanto il locale quanto la posizione era sicura, fu mannato a chiamare l'antri de sotto. Furono messi l'intorno l'avamposti e poi fu fatto un piccolo complotto e mannassimo a Roma, al comitato, uno per dirgli che stammio a nascosti sin tanto che non fosse ritornato. Dopo, Righetto assieme a Giovannino sortirno dal casale e perlustrorno li contorni e siccome lì vicino scoprirono una casetta, ci mannorno tre fazioni, perché se dell'intorno se fosse visto qualche papalino ci dassero il chi viva su al casino. E de fatti poco dopo mezzogiorno vengono su de corsa due fazioni e dice che li possino ammazzarli se vista una pattuglia dei dragoni, se sono avanzati fino sotto al muro, hanno dato la fuga ai cavalli e sono spariti in giù per l'arco scuro. Righetto allora, che bel sentimento che la pattuglia di ricognizione voleva di l'annunzio del cimento, chiama Giovanni assieme alla sezione, che c'ero io pure, e dice: Sul momento va alla casetta e pia la posizione. Annamo e mentre Stamio, chiusi Trento, dice: «Allarmi! Ce semo! Un battaglione!» Sortimo, se mettemo allineati, saremo stati in 17 e guardiamo giù sotto negli prati e in fondo, tra le fratte degli spini, vediamo luccicare le baionette. «Viva l'Italia! Soli papalini!» Arrivati alla porta del cancello, la tromba dà il segnale «Fuoco avanti!» Si fermano, scavarchiano il muletto e incominciano il fuoco tutti quanti. E mentre stiamo io lì, tutti davanti alla casetta, Trento nel tinello, il Vignarolo in mezzo a quel fragello stava a cantare litania dei santi. E intanto che il nemico s'avanzava e ogni palla fischiava per 50, sentì mio Giovannino che strillava imperterrito in mezzo alla tempesta, dice: «Pensate che siamo 70 e che ci avemo 6 cartucce a testa! Non sparate, che qua non so vicini!» E intanto che veniva un battaglione, si vedevano l'antri papalini che salivano in su per lo stradone. «Per Dio, non se spregamo i quatrini!» strillava Giovannino. «Attenti, Unione! Non sparate, che qua non so vicini! Fermi! Fermi, per Dio, fermi! Attenzione!» E intanto che le truppe s'avanzavano, che se può dire che Stamio faccia a faccia, le palle, Fio di Cristo, forminavano. Ma quando che ci corse tanto poco che quasi gli potemmo sputare in faccia, Ninetto urlò: «Viva l'Italia! Fuoco!» E lì, nel meglio del combattimento, della lotta corpo a corpo da vicino, ecco Enrico fuggendo come il vento, guarda la posizione un momentino e strilla, dice: «Addietro, Sacramento, che ve fregheno! Addietro, Giovannino! Addietro, che restate chiusi Trento, prigionieri! De corsa, giù al casino!» Lì alla meglio facessimo il quadrato e voltassimo giù per lo stradone, dietro al righetto a passo scellerato, e arrivati al casale s'agguattassimo tra le rose e le piante di limone, e accucciati lì sotto l'aspettassimo. Allora, dopo questo, i soldati, che non capirono che era una finzione, credendosi che fossimo scappati, vennero per piare la posizione, e mentre stammo tutti ridunati, li sentimmo venire per lo stradone urlando come ossessi scatenati. Marighetto, che stava in ginocchione avanti a tutti, fece: «Attento, attento!» E quando che ci stiedero davanti, Righetto, che aspettava quel momento, buttò via la berretta, fece un salto, strillò: «Viva l'Italia!» e corse avanti. E noi dietro tirassimo l'assalto a vederci sortire dalla piazzetta dove il fuoco che uscisse da Vulcano, preso di fronte, e il reggimento sano si mette a fuggire verso la casetta. Noi, per potergli fare la cavalletta, si arrampichiamo sopra un falso piano, e mentre il vedegno da lontano gli andiamo sotto con la baionetta. Ma mentre da rivalli c'era poco, santo Dio, boom, boom, sentimo un botto e vedemo una nuvola di fuoco. Ci calò sopra gli occhi come un velo. L'assassini scappando giù di sotto ci avevano sparato a bruciapelo. Allora, quelli che restammo dritti, se buttassimo giù sullo stradale, quando se vedessimo sconfitti, ritornassimo dritto nel casale. E siccome mancava il generale, fu detto: «Se ci danno i diritti dell'onore di guerra, stiamo zitti. Se no, morimo tutti. Tanto è uguale.» Se fece notte. E mentre stammo dritto nel casale, aspettando i soldati, ci parve di sentì come un lamento. Andiamo sulla porta tutti uniti, s'affacciamo, orecchiamo per i prati. Soli nostri, per Dio, soli feriti. Allora se buttiamo giù per prato, fra l'arberi, all'oscuro, e andiamo in traccia dei feriti, e dopo aver cercato dove successe il fatto, fra l'erbaccia, sotto un albero secco, fu trovato Righetto. Stava steso, col braccia spalancate, corpetto insanguinato dal sangue che gli usciva dalla faccia, mentre gli edamio l'ultimo saluto degli morti. Fra l'arberi lontani sentimo un antro che strillava «Aiuto!». Seguimo il sono e sotto d'un olivo ci trovassimo steso Mantovani in un lago di sangue, ancora vivo. Nel casale fu messo su un divano e mentre gli sfilamio la giberna ci insegnò su un fianco con la mano come ci avesse una ferita interna. Allora gli accostammo la lanterna sul fianco, lo scoprimo piano piano. Sangue di Cristo! C'era una caverna che gli c'entrava un braccio sano sano. Se mettessimo tutti inginocchiati, Lui con le mani s'acchiappò la gola e ci fissò con gli occhi spalancati. Fece uno sforzo, s'arzò su dal letto come volesse di qualche parola e gli cascò la testa sopra al petto. Allora quelli che erano spirati li portassimo dentro alla cucina e accanto, nella camera vicina, ci mettessimo l'antri più aggravati e aspettando che fosse la mattina così alla meglio furono medicati, ma senza un filo della medicina. Era una cosa da morir straziati, tanto che uno per infasciargli un osso d'un braccio ci toccò a strappargli i tocchi delle camicie che portammo addosso. Che strano che vedere soffrire la gente che te guarda col cuore drento all'occhi, staglie davanti e non poté fa niente. Un passo addietro, dopo il tradimento della scarica, appena intese il botto, Righetto e Giovannino in quel momento cascorno, salvo ognuno a bocca sotto. Dice che allora, mentre il reggimento scappava giù per prato, 7 o 8 che li vettero senza sentimento, tornorno addietro e gli riannorno sotto. E Giovannino, in mezzo a quel macello sporco di sangue, intanto che menaveno, cercò col petto di coprire il fratello, ma dopo la difesa disperata, intanto che le truppe riscappavano, cascorno giù fra l'erba insanguinata. E verso notte, dice che Righetto, mentre che il suono dell'Ave Maria da Roma gli suonava l'angonia, fece: povera mamma, benedetto. Poi gli crebbe l'affanno dell'entrapetto e fece: se m'avrai da portar via, vuoi essere seppellito a casa mia. Fece un lamento e cascò giù. Ninetto allora lo chiamò, strillò più forte, non rispose. Lo prese per la mano. Era gelata, il gelo della morte. Gli diede un bacio e tartagliando a stento, sperando d'essere inteso da lontano, strillò: ma è morto Erigo in sto momento. E da lontano si sentì un sussurro d'altre voci: ma è morto mio fratello, strillò Ninetto. E dopo fece: io puro sento che moro e vado a rivederlo. E intanto che altre voci lì all'oscuro gli parlavano senza de vederlo, strillò: si camperete, ve scongiuro, dice, de facce seppellì a groppello. E quando che le forze gli ammancorno, che lui se crese all'ultimi momenti, strillò: viva l'Italia. E intorno intorno gli risposero e fu l'ultimo strillo. Poi si intesero ancora altri lamenti e dopo tutto ritornò tranquillo. E noi che s'aspettammo ogni momento la truppa, non vedendo più nessuno, all'arba de comun consentimento fu deciso de sciogliese. Qualcuno rimase nel casale chiuso drento con i feriti e de noi altri ognuno, dopo che s'approvò lo scioglimento, se sbandassimo tutti. Qualcheduno fu preso a Roma in piazza Barberina, l'antri sperduti in braccio della sorte, agnedero a schizzà per la Sabina. Li più si riformorno in carovana, passorno fiume, presero le corte de rento ai boschi e agnedero a Mentana. Yeah. silenzio. Il giornale di Roma, gazzettino ufficiale del papato, scrisse: una banda di circa 100 garibaldini venuti alla spicciolata e radunatisi l'altra sera sopra i monti Parioli fu dovuta attaccare dai nostri bravi soldati che in breve ora la dispersero, lasciando i garibaldini vari morti, tra cui un tale Enrico Cairoli, che ne sembrava il comandante, e 7 feriti, tra cui un altro Cairoli. L'altro Cairoli era Giovanni e morì 2 anni dopo a causa delle ferite riportate. 2 alla testa, una di baionetta e una per colpo di fucile a striscio, e 2 profonde ferite di baionetta alla schiena. I sopravvissuti si dispersero. Alcuni raggiunsero Garibaldi a Monte Rotondo. Sulla montagna del mondo ho sentito suonar la banda, Garibaldi che comanda i garibaldini. Vieni bella, vieni sul mar, che t'aspettano i marinai. Vieni occa, vieni sul mar, che t'aspettano i marinai. Superstiti furono fatti prigionieri nel tentativo di arrivare in qualche nascondiglio dentro Roma e portati nelle prigioni di Castel Sant'Angelo. Un terzetto riuscì a raggiungere il momentaneo porto sicuro dell'anificio Aiani, ormai punto di riferimento dei patrioti sfuggiti agli arresti. Nell'anificio continuava senza sosta l'opera di organizzazione e di assistenza di Giuditta Arquati e del marito, che avevano con loro il figlio di 12 anni. All'anificio erano pervenute le notizie dei fallimenti delle azioni programmate, compresa la sconfitta dei Cairoli a Villa Glori, con la conseguente perdita del carico di armi e munizioni. Malgrado ciò, la speranza e la fiducia nell'arrivo di Garibaldi era ancora viva. I ribelli contavano di poter restare nascosti un paio di giorni, sperando che i garibaldini entrassero in Roma. Ma non avevano fatto i conti con la rete di spioni e delatori al soldo della polizia e degli zuavi pontifici, che avendo saputo della presenza di tutti quei ribelli nell'anificio, lo circondarono sbucando dal vicolo del Moro. Erano più di 300 e armati di tutto punto. Così descrisse la scena un cronista dell'epoca. Una bomba che scoppiava ai loro piedi con orrendo fracasso indicava agli zuavi il luogo del ritrovo garibaldesco. Era il figlio degli Arquati che, a raggiungere della pattuglia sotto le finestre, lanciava su di essa la bomba, intanto che la madre, pieno il grembiule di quelle bombe, con la rivoltella in mano si preparava con gli altri alla difesa. I patrioti, sparando dalle finestre, cercando di impedire agli zuavi di entrare nell'anificio, si difesero strenuamente, ma vennero sopraffatti. Solo in pochi riuscirono a fuggire per una via di fuca che dai sotterranei, attraverso vicoli e scalette, portava al Tevere. Intanto gli ultimi difensori dell'anificio, tra cui era arrestata Giuditta Arquati, nel tentativo di coprire la fuga dei compagni, venivano senza pietà massacrati dagli zuavi, che uccisero anche il marito dell'Arquati. Superata la barriera umana, entrarono nella stanza dove si era chiusa Giuditta con il figlioletto. La donna, malgrado fosse incinta, combatté strenuamente finché sia lei che il figlioletto furono sventrati con numerosi colpi di baionetta. Si racconta che uno zuavo, colpendolo al ventre, disse: «Vediamo se è vero». E un anonimo poeta romanesco ne descrisse la morte così. La videro, una corsa per le scale, una breve lotta, poi una baionetta la sventra, come fosse un animale. Sbatacchia a terra, e il corpo martoriato s'ammucchia, si contorce in un lamento, e il sangue a fiotti slava il pavimento, s'unisce all'antro sangue già sversato. Bella quando te fece mamma tua, credo che siede un anno in ginocchio, e poi smesse l'angeli a pregare, ella l'avessi fatto come il sole. Poi ne vanno da cupido a imparare, e l'imparassi i versi d'amore. E quando cominciassi a compiere, venissia bella in mano basir corpo, sette bellezze già d'avere una donna, prima che bella se fossi chiamare, parta dell'esse senza la pianella, e bianca e rossa senza la lisciare, la bocca piccolina e l'occhio bello, graziosetta dev'esse per parlare. Da spalle stretta in centurella, quella si può chiamare donna bella. Con il fallimento dell'attentato alla Seristoria e delle altre insurrezioni, la sconfitta di Villa Gloria e con eccidio dell'anificio Aiani, moriva quasi del tutto la speranza dei ribelli di sconfiggere il potere temporale del Papa e conquistare Roma per farne la capitale d'Italia. Un barlume di speranza rimaneva e poggiava sulla possibile azione che Garibaldi, fuggito da Caprera e arrivato a Monterotondo, poteva porre in essere a pochi passi da Roma, con i suoi garibaldini stanchi e affamati radunati intorno al loro generale, l'unico capace di infondere loro il coraggio e la forza per combattere. A Monterotondo lo scontro con i papalini assediati, certamente meno numerosi degli assedianti, e rifugiatisi nel convento e nei palazzi dei sobborghi, dalle cui finestre sparavano continue bordate di pallottole, fu lungo. Ma alla fine, dopo un feroce corpo a corpo, i garibaldini ebbero partita vinta, spronati da un indomito Garibaldi e da una banda musicale che durante la battaglia suonava l'inno di Garibaldi. Corriamo, corriamo, su giovani schiere, su bene. Governo pontificio, volendo evitare un'altra sconfitta, richiama le truppe dalle province e, dopo una caccia di qualche giorno, il 3 novembre, incrocia le armi con Garibaldi a Mentana e lo sconfigge. E con l'eroe sconfigge anche i sogni di arrivare a Roma e di conquistarla. Un anno dopo, il 23 novembre 1868, Monti e Tognetti erano giunti nelle carceri nove alla vigilia della loro esecuzione capitale a mezzo della ghigliottina dopo un lungo processo. Pio IX, un mese prima, aveva firmato la condanna a morte e ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma non fu capace di resistere alle pressioni della sua corte ed in particolare a quelle del Papa Nero, come veniva chiamato il padre generale dei gesuiti. Lo scrittore Gaetano San Vittore, autore del libro I misteri del processo Monti e Tognetti, tratto dagli atti del processo, così ricostruisce l'implorazione di grazia che la giovane moglie del Monti rivolge nel colloquio che ottiene con Pio IX. Santità, con una parola, lei può ritornare da morte a vita il mio povero marito. La pronunci questa parola, per amore di Dio, e lei sarà come un Dio per me. Io la prego per i miei piccoli bambini che aspettano il loro padre. Pensi che ha tanto sofferto, poveretto, in quest'anno che ha passato in prigione, lontano dalla sua famiglia, e soprattutto dopo la condanna, all'idea di non poter più abbracciare i suoi figli. Se ha fatto del male, lo ha già pagato. Santo Padre, gli perdoni come ha perdonato nostro Signore. Renda il padre a quei poveri piccini, renda il marito a questa povera derelitta. Non abbiamo al mondo altro sostegno, altra guida. Se questa ci manca, che sarà di noi? Ella, che è il padre degli afflitti, il ministro di Gesù Cristo, si lasci commuovere da questo pianto, abbia compassione di noi poveri cristiani, ci tolga dalla desolazione. Può consolarci con una parola, la dica, per la beata Vergine, per tutti i santi, la dica! Malgrado la supplica avesse fatto breccia nell'animo non del tutto indurito del Papa, che a quel punto avrebbe concesso la grazia ai condannati, ebbero ragione sui suoi dubbi la posizione giustizialista dei gesuiti, degli zuavi e di molti cardinali. Confermò la condanna alla ghigliottina per i due condannati e Giosuè Carducci, nell'ode per Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, lo attaccò senza pietà. Ma tu col pugno di peccati onusto calchi a terra quei capi, empio signor, e sotto il sangue del paterno busto delle tenere vite affoghi il fior. La decapitazione di Monti e Tognetti, per fortuna, fu l'ultima del regno di Pio IX. I giorni che precedevano l'esecuzione erano stati per i due condannati una tortura aggiuntiva, costretti ancora ad affrontare gli interrogatori del giudice che cercava di ottenere, oltre alla confessione, anche i nomi degli altri congiurati che avevano preso parte all'attentato della Serristori. Siete voi Giuseppe Monti? Sono io. Voi, poveretto, avete moglie e tre figli? Sì, signore. Avreste desiderio di rivedere la vostra famiglia? E me lo domanda. Ebbene, vi insegnerò il mezzo vero e sicuro per rivedere presto la vostra famiglia. Una franca e sincera confessione. Esitate ancora? Prendete esempio dal vostro complice Curzio Ventura, che ha fatto una spontanea confessione raccontando tutti i particolari del suo misfatto e narrando anche la parte che voi stesso ci avete avuta. Possibile. Vedete adunque che la giustizia è informata ad ogni cosa. Ci sono prove bastanti per condannarvi tutti. Ma io desidero la vostra confessione unicamente per avere una prova del vostro pentimento e con questa ottenere per voi la sovrana grazia. Pensate a quella meschinella di vostra moglie, ai vostri tre figli, poverini, che rimangono senza un appoggio, senza una guida nel mondo. Ebbene, signore, io confesserò. Oh, bravo! Scrivete, signor cancelliere. Voi, dunque, foste uno di quei settari che iniquamente sovvertirono l'ordine pubblico e si ribellarono contro il potere del sommo pontefice, operando stragi infinite e nequizie di ogni genere. Ma io... Coraggio, figliolo. Dite il fatto che vi ha coinvolto. Una parola e tutto è finito. Dite. La mina. Proseguite. Voi aveste dei compagni nell'esecuzione del misfatto. voi dovete accennare alla giustizia i nomi dei complici, dei mandanti e correi. Signor giudice, io posso confessare le mie azioni, ma non quelle degli altri. E in tal caso me ne duole nel cuore, ma voi rimanete esposto a tutto il rigore della legge. Pensate alla moglie e ai figli. L'amore che io porto alla moglie e ai figli non mi farà mai diventare una spia. Morirò sul patibolo, ma non mi farò mai il denunciatore dei miei fratelli. Peggio per voi. Riconducetelo nella sua prigione. A questo dialogo, tratto dai misteri del processo Monti e Tognetti, ne seguì un altro fra il giudice e Gaetano Tognetti. Come ti chiami? Non lo sapete. Mi avete fatto pur chiamare. Meno arroganza, giovanotto, e rispondi a dovere. Com'è passato la sera del 22 ottobre dell'anno passato? E chi se ne ricorda? Oh, questi infingimenti sono inutili. Consta alla giustizia che in quella sera hai preso parte alla nefanda ribellione. Consta che hai commesso misfatti e nequizie senza termine. Consta che hai perpetrato omicidi, ferite ed altri crimini e delitti. Consta soprattutto che ti sei macchiato del crimine di lesa maestà in primo grado. Costa. E se vi costa tutto questo, perché mi venite a interrogare? Pensa che i tuoi compagni ti hanno accusato, soprattutto Giuseppe Monti, che è stato esaminato prima di te. Queste sono bugie. Nessuno dei miei compagni è capace di un simile tradimento. Da me non otterrete nessuna confessione. Pensa che persistendo in questo contegno tu vai incontro dritto alla morte. E che mi importa? Avete già destinato di farmi morire. A che mi servirebbero umiliazioni, pianti, preghiere? Non avrete la soddisfazione di vedermi piegare la fronte. Pensa all'anima tua. I conti dell'anima io li faccio direttamente con Dio. Fate lo stesso anche voi. Pensa alla tua vecchia madre. Mia madre, poveretta. Voi altri infami la farete morire di dolore. Vedo che sei un peccatore indurito. Torna nella tua prigione. Il comportamento eroico dei due poveri popolani li portò la mattina del 24 novembre 1868 a salire uno alla volta le scale del patibolo, dove li aspettava, nell'abito rosso scarlato della cerimonia, il boia Antonio Balducci, che sostituiva dal 1864 il famoso Mastro Titta, il boia di Roma, andato in pensione dopo 68 anni di servizio e 516 condanne a morte eseguite prima dell'uso della ghigliottina con i sistemi più vari. L'esecuzione fu eseguita nel piazzale dei Cerchi di fronte al popolo romano che non disdegnava lo spettacolo. Lo scrittore romano Luigi Zanazzo ci informa che c'era un detto a Roma: bella giornata, peccato non ci si rimpiccato. E il Belli, già nel 1835, così descriveva il rituale della ghigliottina. Vienghino, attenti, la funzione è lesta. Ecco, col collo ignudo e trittichente, er primomo dell'opera, er paziente, lasso a coppe, er signore della festa. Ecco er professore che se presta a servì da cirusico alla gente per tre quattrini e a tutti gentilmente gli cura er male del dolor de testa. Ma no, a man manca, no, l'altro a man dritta, quello al secondo posto è l'aiutante, la procedenza spetta a Mastro Titta. Volete insegna a me chi fa la capa? Io qua non manco mai, so frequentante, e er boia lo conosco come er papa. Alle ore 7 cadde la testa del Monti, schizzando di sangue anche la scala che portava alla ghigliottina. Dopo qualche minuto rotolò sul palco la testa di Tognetti. Il carnefice le prese tutte e due per i capelli e le mostrò agli zuavi radunati nel piazzale, che festeggiarono facendo rullare i loro tamburi. Il potere di Pio IX, il papa re, non poteva più fermare la volontà e il desiderio degli italiani di arrivare ad avere Roma come capitale del nuovo Stato e porre fine alla tirannia. Bandiera del tricolore e pianto. settembre 1870, dalla breccia di Porta Pia, l'esercito italiano entrò in Roma e la conquistò, segnando la fine del potere temporale del Papa. Pio IX si chiuse in Vaticano e si dichiarò prigioniero politico, una condizione che cadde solo con i patti lateranensi. La bandiera tricolore sventolò finalmente sul Campidoglio, testimoniando il tributo di sangue che gli eroi del Risorgimento, italiani e romani, avevano versato perché si realizzasse il sogno di un'Italia unita e libera. Maestro Andrea Orlando, maestro Luigi Mastracci, il nostro coro che Andrea presenterà. Soprani, Patrizia Pignanelli, Titi Lanzetta, tenori, Daniele Venturini, Domenico Prezioso, baritoni, Davide Maglie, Andrea Conteduca, Romolo Barbona, Milena Miconi, Luigi Tani. State seduti, non state tranquilli, non vi chiedo la mano sul cuore, niente, però vorrei che il maestro Mastracci suonasse nella sua trascrizione dell'inno dei Mameli al pianoforte, ti prego. Poi se qualcuno vuole cantare, canti pure. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Graz